Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Natale Farinetti, detto Oscar, 59 anni, Langarolo di Alba, sposato con tre figli, imprenditore, fondatore della catena Italy. Per molti un genio che reinventa continuamente il futuro. Ha fatto esplodere il Made in Italy del cibo anche a New York. Per altri è buono, furbo, con una grande abilità e cresciuto con rapporti privilegiati con sindaci rossi e cooperative. Per tutti, oggi in Italia è un grande imprenditore, amico di Renzi. Ecco Farinetti, le dà un po' fastidio questa definizione o no? Sì, anche perché ho avuto un rapporto privilegiato con Alemanno, che non è certo stato sindaco di sinistra qui a Roma. Anche grazie a lui abbiamo ridato vita al termine della stazione Ostiense. Senta, ma è vero che si scambia tutte le mattine SMS alle 6 con Matteo, no? Renzi? Qualche volta sì, tutte le mattine no, però lo facciamo a quell'ora. Lui è uno che si sveglia presto, è un'altra roba che apprezzo di lui. Senta, ma è vero che ha rifiutato di fare il ministro? Sa, da noi nelle Langhe, quando si accoglie qualcuno in casa, gli diciamo né che rupina il caffè, gli diciamo né che non lo prendete il caffè. Un modo di accogliere. Lui mi ha detto né che non lo fai il ministro, perché sapeva già quale sarebbe stata la mia risposta. Senta, ma non è perché ha avuto affari pubblici, ha ricevuto aiuti, ha avuto paura di essere attaccato? Affari pubblici tanti, perché no, pubblici collaboro con i sindaci di mezza Italia, soldi dallo Stato, mai una lira, non ho niente da cui vergognarmi. E quindi nessuna paura di conflitti di interesse. Però abbastanza paura di un'informazione in Italia che è orribile ultimamente. Senta, ma quando è nato il governo Letta, a proposito di informazione, lei ha comprato una pagina di giornale per dire bene della nomina a ministro di Nunzia Di Girolamo, dicendo l'agricoltura è donna. È vero, anche la terra è donna. È interessante come operazione. È stata brava poi come ministro? Sì, certo che lo è stata. Il problema è che, come lei sa, fare in 8 mesi non si può troppo cambiare poco. Nulla. In Italia ci vanno almeno 6 mesi per fare l'analisi e capire. Però non è stata male, poi è una donna simpatica. Senta, Farinetti, ma la pagina del giornale la comprerà anche per applaudire il nuovo ministro? Non ancora, questo ministro, mentre Nunzia non la conoscevo allora, non l'avevo mai vista, mentre invece questo ministro Martina lo conosco perché è stato sottosegretario, molto bravo, bravo, preparato e secondo me farà bene. Lei conosce bene Renzi, qual è la qualità maggiore di Renzi? La velocità e la determinazione, abbinato anche a senso del dubbio, è uno che è disponibile a cambiare idea. E il suo difetto? A volte è troppo veloce. Senta, ma dire a Letta tranquillo, puoi sostituirlo come ha fatto, una qualità o un difetto? Non è un difetto, perché non gli ha mai detto tranquillo, gli ha detto tranquillo finché il governo fa le robe, e magari non per colpa sua, ma era un pelino fermo quel governo lì, e in questo momento in questo paese servono alcune decisioni rapide. Quindi secondo lei è l'unica cosa che poteva fare? Secondo me era la cosa migliore che poteva fare, forse poteva essere un pelino meno veloce, voglio dire, e un po' più gentile. Tuttavia io sono contento che abbia preso questa decisione. Cioè un'azione da barbaro. Ma sai, Ricco ha scritto i barbari e ha raccontato che i barbari hanno fatto delle gran belle cose. Se non ci fossero stati, insomma, i barbari, andava fatto così. Secondo lei andava se fatto non così. Fossero arrivati i barbari, non ci sarebbero i prosciutti e i salami in Italia. Ci hanno insegnato loro a lavorare i maiali, quindi anche come altre cose buone. Senta, lei dice quando l'Italia tocca al fondo riparte. Stiamo al fondo, possiamo andare ancora più giù? Possiamo andare ancora più giù. In questo momento abbiamo quasi metà dei giovani disoccupati, ma può salire. Sa che ieri ho avuto un dato terribile: il 9% degli italiani non mangia, non trova cibo per mangiare, soffre di malnutrizione. 9% del paese, che è l'ottava potenza del mondo. Questo è un problema. Può ancora peggiorare nettamente, perché questo paese comunque ha delle risorse naturali immense che la tengono su, finora è stata tenuta su di quello, però se va ancora più giù è un problema grosso. Ma secondo lei perché Renzi può farcela più di Letta per farla ripartire? Perché ha individuato i problemi giusti e ha il coraggio, secondo me, per ribaltare qualche tavolo. Se non ribalti qualche tavolo in Italia non ce la fai a cambiare le cose. E quindi lui ha questo tipo di coraggio e è molto ambizioso, ma non è egotico. Mette anche il cantiere di perdere e andarsene. Questa è una roba importante. Ho letto però che lei ha detto che la burocrazia, sì, la burocrazia, però c'è tantissima anche in America. È un po' solo un po' più veloce, quella italiana è più lenta, però ce n'è tanta. Le do un dato, in questo momento io ho un contenzioso negli Stati Uniti per un problema sull'alcol, nel senso che loro hanno una legge antiproibizionista ancora, ma lo stiamo decidendo in pochi giorni, un problema che è nato 15 giorni fa e quindi tra 15 funziona. Giorni c'è la funzione. Hanno delle persone meno ingessate. Le piace il governo? Nel suo insieme? Sì, però bene, mi piace molto perché c'è metà donne, io sono un fanatico della parità, perché sono giovani e perché c'è gente nuova, però... Vabbè, le piace insomma, però? Però non è mica un momento in cui servono grandi ministri, in questo momento serve un grande leader e quindi... servono i grandi leader nelle varie posizioni. E quindi è un Renzi primo, non un Letta bis? Assolutamente sì, sarà un Letta bis perde. E sono d'accordo con quell'analisi che non fa il Premier ma fa il Sindaco d'Italia, perché la tecnica è quella del sindaco. Lei dice, l'Italia appunto stava accennando a 5 vocazioni, agroalimentare, moda, turismo, patrimonio artistico, industria manifatturiera. Basta avere le persone giuste in queste aree e il gioco è fatto. Renzi le metterà le ha messe? Secondo me sì, le ha già messe, ne metterà delle altre. Serve un grande capo al Made in Italy, un grande capo all'export, una figura. Guardi, quando c'era le voci di Montezemolo e c'erano molte critiche su questo. Tuttavia, io che conosco bene Luca, ma lo conosco da cittadino del mondo più che da italiano, non lo vedevo mica male a quella roba lì. Perché nel mondo Luca ha un'immagine formidabile. Quella è tramontata, ne ha un ne altro. Ne troveremo di nome. Altri. Come ce l'ha? Guardi, ne dico uno che è passato da lei in questi giorni, avesse voglia di farlo, Diego Della Valle. Senta, lei ha dato consigli a Renzi? Io faccio fatica ultimamente a dare consigli alle persone di quell'età lì, perché noi siamo la generazione, la mia, che stiamo consegnando il paese ai giovani con 2.000 miliardi di debiti, col 40% di disoccupazione giovanile, e continuiamo a dare consigli. Tuttavia, quando parliamo, dico sempre come la penso, a volte non la pensiamo nella stessa maniera. Senta, intanto oggi lei comunque è un campione nel vendere cibo Made in Italy. Qual è il segreto? Il suo segreto? Svegliarsi tutte le mattine con un numero in testa, 0,83%, che è il numero dei cittadini italiani rispetto ai cittadini del mondo, 0,50% che è la superficie dell'Italia rispetto al mondo, e invece dicotomicamente, virtuosamente dicotomicamente, la potenza mostruosa che hanno i prodotti italiani come domanda mondiale. Ecco, senta, ma quando ha capito che doveva passare dalla vendita della tecnologia alla vendita del cibo? Quando ho capito che l'elettronica era morta, nel senso che la grandissima innovazione era fatta nell'elettronica avrebbe avvantaggiato solo i produttori e non più i mercanti come me. E io adoro fare il mercante, ma non voglio il margine garantito, lo voglio meritato, quindi voglio meritarmelo. E ricorda com'è andata, quel giorno, quell'ora in cui ha detto basta, vado di là. Era venuto un tale della Microsoft a spiegarmi che il loro software era più potente dell'hardware, che comandavano loro e non più quelli che facevano le scatole, e mi aveva detto che io dovevo lavorare con il 7% secondo lui per muovere le merci. Mi considerava colui che gli apriva le scatole e non era la mia funzione. E essere nato nelle Langhe è servito a questo? È stato importante? Secondo me moltissimo. Perché? Perché la Palestina, la terra promessa dell'agroalimentare italiano, nelle Langhe se butti una buccia di banana per terra nasce il nebbiolo. Lei dice che contro la crisi bisogna nutrire e coccolare la terra e dare nuova dignità ai contadini. Ecco, lei come fa? Tutto parte dalla terra madre. Il vero grande primato dell'Italia è la sua biodiversità. Qui in questo momento siamo a Roma. La regione Lazio ha più specie vegetali di tutta l'Inghilterra, di tutto lo UK. Partiamo dalla terra madre, creiamo un'agricoltura di altissimo livello, perché questo è quello che si aspettano da noi nel mondo, trasformiamola in cibi di altissima qualità e vendiamoli nel mondo. Ma questo è quello che io cerco di fare. Ma mi dica una cosa, per fare questo bisogna essere contro gli OGM? Totalmente. Totalmente. Totalmente. E definitivamente. Se tu togli al contadino. Se tu togli al contadino l'orgoglio di fare il seme, di riprendere quel seme, di ripiantarlo, e se devi mandarlo dalla Monsanto a comprarlo, gli togli la dignità. Il contadino non fa solo l'agricoltura, disegna i paesaggi. Il contadino in Italia è ancora più funzionale che in altri paesi del mondo. E quindi desidero che ci sia un grande orgoglio contadino. Ma, quindi no OGM. Ma quanti posti di lavoro si possono creare puntando su questa strada che indica lei? Io nel mio piccolo da zero, 7 anni fa, oggi 3.169. Ma fissi o stagionali? La stragrande maggioranza fissi, poi abbiamo anche dei, chiamiamoli part-time, oppure determinati, certo. Però quest'anno abbiamo l'obiettivo di creare altri 1.000 posti di lavoro. Bisogna andare a vendere nel mondo. Certo. È chiaro che non possiamo crearli sul mercato interno, dobbiamo produrre in Italia. Vede, in Italia abbiamo ancora 3 milioni di ettari coltivabili, ne abbiamo 14, possiamo andare a 17, ma soprattutto abbiamo soltanto un 10% di agricoltura alta, dobbiamo arrivare almeno al 40%. Di agricoltura alta, ecco, senta, i giovani però hanno poche possibilità di sognare in questi momenti perché i numeri sono quelli che ha detto lei. John Elkann ha detto che è anche colpa loro, è vero? Non è vero, ma conoscendo John Elkann credo che gli sia scappato, in un contesto che vorrei vedere, perché John non la pensa così. Tuttavia, analizzando la frase e pensando che non la pensava, non è assolutamente vero. Senta, Diego Lavalla, proprio che lei ha citato qualche giorno qua, qui ha detto che le imprese dovrebbero destinare almeno l'1% degli utili al territorio in cui operano. Lei è d'accordo? Sì, lei per par condicio prima parla di John Elkann e poi di Diego Lavalla. Sì, ha ragione. Ci deve essere una grande attenzione lei per il territorio dove nasce. Lei lo fa. Moltissimo. Come? Beh, intanto Italy destina tutti gli utili al suo territorio, intanto Italia. Certo, intanto. Corsi di educazione alimentare per i bambini gratuiti, corsi per i pensionati, aiuti ai produttori, ma soprattutto nel nostro territorio, diciamo il Piemonte, la provincia di Cuneo, per esempio, noi abbiamo un'associazione che si chiama La Granda, che fa la carne più buona del mondo, secondo me, e noi riusciamo a pagargli le carni il 32% più del mercato. Senta, ma quando ha aperto a New York ha pensato ce l'ho fatta? Sì. Lei doveva vedermi quel pomeriggio della giornata di agosto del 2010, perché ero terrorizzato, perché se sbagliavo New York era un casino. Senta, è vero che a New York oggi si dice che dopo l'Empire State Building e il Metropolitan, Italy è l'attrazione più visitata della città? Non si dice, l'ha calcolato il New York Times top 10 ci ha messo al terzo posto. La cosa che mi ha fatto godere di più è che al quarto c'è il MoMA e al quinto c'è l'Apple Store, quindi la grande rivincita contro l'elettronica, il prosciutto contro l'Apple. Senta, questa, fin qui c'è la gloria, però per esempio in Giappone è stato un disastro. Perché? Perché ho sbagliato il primo, l'ho fatto troppo grande nel posto sbagliato, ho incominciato a perdere soldi. Allora potevo reagire tornandomene a casa con la coda in mezzo alle gambe o prenderne altri. Ne ho aperti altri 9. È sempre che perso. Vanno bene, vanno bene. Adesso ho chiuso in questo quello mese, primo. Ho chiuso il primo e da quest'anno siamo inutili. Senta, meno però male. Anche la catena di osterie che ha aperto nel 2000 non hanno funzionato. Perché? Perché ho sbagliato, non le ho mica fatte tutte giuste. In realtà. Raccontiamo anche gli errori. Abbastanza antipatiche le persone che dicono di aver fatto sempre giusto. Gli errori sono molto utili. Ma perché la catena dell'osteria è sbagliata? Perché non c'era la vendita, c'era solo la ristorazione. La ristorazione in questo momento in Italia ha grandissime difficoltà ad andare in break-even. Bisogna vendere. Ecco, i ristoranti gourmet di alta gamma che sono dentro su Italy, però funzionano poco, lei li tiene aperti lo stesso. Non tutti funzionano poco, alcuni funzionano molto bene, altri meno. Ma ha detto lei. Funzionano meno dei ristorantini sotto. Ma sa, Italy è un contrasto apparente tra informalità e autorevolezza. E l'informalità funziona alto più dell'autorevolezza, è naturale, però ci tengo da matti. Perché lì sperimentiamo. E nei grandi ristoranti gourmet importanti di Italy... lì inventiamo i piatti che poi facciamo che poi diventano popolari. Ecco, ma nei suoi negozi lei è un fanatico dei prodotti a chilometro zero o no? No. Sono sostanzialmente contro i chilometri zero, perché se noi fermiamo la libera circolazione delle merci nel mondo, fermiamo anche la libera circolazione delle idee. Quindi... Però sono per trasportare solo le eccellenze e non tutto. È lampante che io mangio una mela italiana e non mangio una fragola oggi che è fuori stagione e che deve arrivare da un'altra parte del mondo. Però io vorrei vendere, noi vogliamo vendere Barolo e Barbaresco ai cinesi. E che patatine giusto? Mangia? Io non mangio le patatine. Fanno ingrassare. Mi hanno criticato perché ho delle patatine inglesi. Senta, dentro. Ma vende anche, le fanno a mano. Vende anche cibi congelati? No. All'ingresso di tutti gli Italy c'è che non c'è niente di congelato tranne il gelato. Ultimamente abbiamo trovato la soluzione di non congelare neanche il gelato, lo mantechiamo al momento e lo diamo. Senta, mi racconta in due parole la sua infanzia. Mia nonna, il ricordo più bello che ho della mia infanzia è la mamma di mio papà, che era una donna grandiosa. Poi lei sa, i ricordi da piccolo sono sempre amplificati. E le langhe? Le langhe, mia nonna, la campagna, le galline, la terra. E gli studi? Bene, io studiavo abbastanza, insomma mi impegnavo un po', mi è piaciuto molto il liceo classico, che era il mitico liceo Govone di Alba, quello di Pavese e Fenoglio. Suo padre era comandante partigiano delle Brigate Matteotti, cosa le ha insegnato per sempre? Mi ha insegnato due grandi valori, quello della libertà e quello di saper perdere e sbagliare. Ed è una cosa che mi è piaciuta, che mi ricordo sempre. Solo chi sa perdere può vincere, insomma, certo. Più o meno. Lei ha detto, sogno una donna, a proposito di vincere e perdere, sogno una donna che dica, non esco con quello perché ha parcheggiato in seconda fila. Ne ha mai trovata una? Sì, ne ho trovata una 36 anni fa, mia moglie, siamo felicemente sposati, abbiamo tre figli. E la mia idea è di trasferire il valore del rispetto dal senso del dovere al senso del piacere. È l'unica maniera per farcela. Senta, una cosa che colpisce di lei che sembra, stiamo sentendo, buono da non crederci, mi dice un suo vero difetto? Ne ho molti. Uno, me ne dica uno vero. Sono abbastanza egotico e a volte pecco di mancanza di umiltà. Senta, un giorno ha detto un giornalista, venga da me che le dico dove ho sbagliato nella gestione finanziaria. Ecco, dove ha sbagliato? E ho commesso di errori straordinari, però non conosco quelli finanziari perché non me ne occupo io. Quindi capitali scudati, suoi rientrati, niente. Non posso avere capitali scudati rientrati perché non ne ho mai esportati. Gli unici quattrini che ho portato, per esempio, in America, in Giappone, per spenderli a fare negozi. Senta, non esiste. Torniamo alla politica. Renzi, ha fatto bene o no a fare l'accordo con Berlusconi sulle riforme? Ha fatto bene a fare l'accordo anche con lui. Ragazzi, se con Grillo non si poteva fare, abbiamo bisogno dei voti, quindi li faccio con chiunque, ci mancherebbe altro. Ma gli arriveranno voti di Grillo adesso a Renzi, secondo lei? Un po' sì, arriveranno. Io ho conosciuto un sacco di gente molto in gamba e per bene che ha votato Grillo l'ultima volta. A lei piace Grillo, no? Per una parte, quando si lamenta bene senza esagerare nella maleducazione, la cosa in cui non mi piace è che non trova mai le soluzioni. Secondo lei Renzi rispetterà l'accordo con Berlusconi sulle riforme? Beh, deve farlo l'accordo, lui deve fare la legge elettorale. È figlia di un accordo. E deve fare questa legge imprecisa, imperfetta, come tutte le cose che si possono fare nella vita. Vede, mentre lui corre c'è un sacco di gente che gli sbatte in faccia la sua idea di perfezione, ma sono immobili. Si svegliano alle 11 del mattino e poi dicono la loro idea di perfezione, li sbattono in faccia e stanno fermi. Senta, lì. Non va bene. No. Adesso in Piemonte si voterà per il presidente della regione. Anche lì non si candida, no? Beh, no. Assolutamente si candida un mio grande amico Chiamparino, che stimo molto. Ecco, ma passare da sindaco com'era a banchiere come ha fatto, poi di nuovo candidato presidente, non è un po' troppo? Sì, io avrei evitato la parentesi del banchiere, ma in realtà ho capito che non si trovava molto bene. Infatti, la prima occasione di tornare in politica ci torna. Ma conoscendolo bene, è stato grande sindaco, sarà un ottimo, e ne abbiamo bisogno adesso di un ottimo presidente della regione Piemonte. Però Torino di debiti ne ha tanti. Sì, ma ha fatto tanto, ha fatto una cosa straordinaria. E poi adesso è arrivato un altro grandioso sindaco che si chiama Piero Fassino, che è bravo a ripianare i debiti. L'ha fatto già col PD, si ricorda? Vendette botteghe oscure, ne fece. È un'altra grande persona che ce la farà mettere a posto anche il comune. Senta, ne abbiamo parlato nella scheda, lei non fa politica, però insomma. Ma quanto ha contato la politica e il rapporto con le cooperative rosse, con i sindaci nel suo successo imprenditoriale? Ha avuto un ruolo? Il rapporto con le cooperative rosse non è centrato niente con la politica, è un accordo commerciale di lavoro. E la politica ha contato molto, ho avuto rapporti con tantissimi sindaci in Italia, ma per me fare politica, io faccio politica. Creare posti di lavoro e lanciare una certa immagine vera dell'Italia nel mondo, secondo me è politica utile al paese. Senta, oggi il Made in Italy, a proposito della moda, però è quasi tutto cinese, francese, a parte piccole eccezioni, grandi eccezioni, ma insomma poche, Armani, appunto, Della Valle, eccetera. Siamo in un paese in svendita oppure è l'effetto normale della globalizzazione? È un po' l'effetto della globalizzazione, ma siamo anche un paese in cui sta mancando coraggio agli imprenditori, e quando hanno una roba che va bene la vendono. Io non venderò Italy agli stranieri. Ecco, non capiterà per non lei. Esiste. Non esiste. Senta, l'Europa è determinante nell'agroalimentare, lo è in bene o in male? Lo è abbastanza bene e in certe cose in male. Le do un numero: ci sono 400 tra conservanti e coloranti approvati dall'Europa che possiamo, i produttori possono inserire nei propri cibi, e questo non va bene. Non va bene. Noi dobbiamo darci da fare un po' da soli, per pur restando fare. Nell'Europa. Le do anch'io un numero: 60 miliardi il danno della contraffazione agroalimentare. L'Europa lì non ci difende, o sì? Dobbiamo difenderci da soli inventando un marchio unico per il cibo italiano. Dobbiamo dare la possibilità ai cittadini del mondo di riconoscere quello che è italiano. E dobbiamo lavorare su questo. Ma credo che questo ministro incominci. C'è molto da fare e si può fare in 3 mesi, non in 8 anni. Quel molto in 3 da mesi? Fare. Bisogna fare le robe più in fretta. Il problema del nostro paese. Ma questo in 3 mesi come lo fa? Invento un marchio unico che si chiama Italia. Io ho proposto la mela tricolore. Lo appongo su tutti i prodotti veri italiani. E faccio un advertising nel mondo, si ricorda quello di Pura la Vergine Vero Cuoio, quella roba lì, cerca il prodotto italiano. Dopo incominciamo a parlare delle nostre DOP, DOCG, IGP, abbiamo piantato un po' di confusione. Senta, cosa a proposito di futuro, cosa si aspetta dall'Expo 2015? Moltissimo, che arrivi il doppio delle persone che ci immaginiamo. Quante ce ne aspetta lei? Loro ne aspettano 20 milioni, secondo me ne arrivano molte di più. Tutto il mondo. Ma vuole... secondo lei stiamo andando in quella direzione? Stiamo costruendo questa cosa? Le imprese italiane, soprattutto nel mondo, lo stanno facendo. C'è una voglia d'Italia. Ma lei si mette nei panni di qualunque cittadino del mondo. Siamo il paese con il 70% del patrimonio artistico, più bei paesaggi. No, ma io volevo sapere se l'Expo, questo è generale, ma l'Expo come sta venendo secondo fuori a Milano? Me, sta venendo fuori così? Secondo me nella direzione giusta. E noi italiani, verso la fine, ha notato che ogni volta poi la raddrizziamo. Tipo quindi le Olimpiadi invernali. Quindi è da raddrizzare. Già fatto. Che ci stiamo lavorando. Sala, una persona intelligente. Gente, sia Carlin Petrini sia il sottoscritto molto più umilmente stiamo cercando di aiutarlo. Beh, ci crede. Senta, lei dice sempre ogni 10 anni cambio lavoro e vendo il nuovo futuro. Qual è, siamo arrivati quasi a 10 anni di questa vendita del cibo. Qual è il nuovo futuro? Scadono a settembre di quest'anno. Aia. Si chiamerà Green Pea, glielo dico in anteprima, Pisello Verde, e sarà un grande luogo di rispetto dove delle persone di rispetto verranno a comprare oggetti di rispetto, torno ai beni durevoli. Senta, le faccio un'ultima domanda. Lei ha detto l'Italia ha tanto da imparare dalla Chiesa e lei è molto amico di Don Ciotti. Che cosa bisogna imparare da questa Chiesa che per lei è rappresentata da Don Ciotti? È rappresentata da Don Ciotti e ora anche dal suo capo, che finalmente è un grande capo, che si chiama Papa Francesco, che è una meraviglia. L'Italia deve imparare molto da Papa Francesco, da Don Ciotti, con queste persone qua. In questo momento, per esempio, insieme a Don Ciotti stiamo lanciando un grande progetto che si chiama ASMA. E invito tutti a andare sul sito asmaincertosa.it. Asma vuol dire Alta Scuola di Marketing Antimodello. È un weekend da farti mancare il fiato. I docenti saremo Don Ciotti, Carlin Petrini, Alessandro Barico e io. E cercheremo di spiegare ai manager, agli imprenditori italiani di tutto il mondo che il primo profitto è il rispetto. Allora, l'Asma che fa paura a tutti, invece auguriamo di frequentarla in questo corso. Grazie. 9:32:13 pubblicità. Mix 24 800 24 00 24, 349 238 6666, l'SMS. 9:35:16. Mario, che titolo faresti per l'intervista di Farinetti? Tutto Farinetti del suo sacco. Buttafuoco, Pietrangelo? Nasce l'asse Farinetti della Valle. La buttata in politica. Canzone. La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. La stagione dell'amore. Allora, Allora ci sono le chiazze di giallo selvaggio, nei guardrail già spuntano le basette, che sono tutti questi fiori selvaggi che portano avanti la primavera. Certo, c'è ancora da aspettare, ma intanto è venerdì e dai parabrezza, dai finestrini, ovunque possiate gettare lo sguardo c'è questa attesa, giusto Mario? Io sono, non so più come fermarti. No. Adesso a chi è dedicata questa? Dai, dimmi. E non a Massimo D'Alema? Ma sì, dai. Ragazzi, anch'io la mia canzone oggi. Vai Sara, vogliamo sentirla. Vai. Buonanotte. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente, nessuno. Secondo me ci sono dei problemi stamattina perché. Perché? Cioè, la stagione dell'amore, giovanotti, ma cosa avete? Ma Farinetti vi sta coinvolgendo in qualcosa di nutelloso. Sarà che a stomaco pieno c'è ottimismo. Dice Enrico da ce li abbiamo, ce li abbiamo, ce li abbiamo, svegliamo l'ambiente, ce li abbiamo? Non ce li abbiamo, peccato, li avremo tra poco. Giovanni, devi fare qualcosa tu, mi devi annunciare le bolle? Cosa io facciamo? Devo annunciare le bolle e dirti che persona ricca di buoni valori, grande imprenditore quando alla base c'è il rispetto. Marco d'Alessandria, cosa bolle in pentola? Però Marco D'Alessandria ha apprezzato, vabbè, sì. Contagiato pure lui. Prima o poi, vabbè, tra un po' vi sveglio però. E Giovanni, qua, insomma, le bolle. Sentiamo Briatore che ne pensa. No, ma sei ridicolo. Non puoi andare in giro così. Io posso andare anche con un lucchetto, perché io sono io e tu sei tu. Tu pensi di essere figo, ma non puoi presentarti così. Se volete un giorno uno di voi lavorerà per me, così tu non entri neanche nel portone. Sei fuori. Allora qua sei fuori perché ho usato Briatore, il sei fuori eccetera. Capitale corrotta, nazione infetta. Noi ieri abbiamo avuto il sindaco Marino che diceva blocco tutto, gli stanno preparando un decreto, dovrebbe andare entro oggi. Capitale corrotta, nazione infetta anche oggi, ricorderà, era un grande titolo dell'Espresso. Però insomma, sentite qua. Disavanzo 2012 pari a 13,89 miliardi secondo le ultime stime. Si dirà, vabbè, ma quello è il passato. Benissimo, però fa acqua anche la gestione ordinaria che ha chiuso con 280 milioni di disavanzo. E questo, nonostante le entrate con l'IMU siano balzate da 700 a oltre 1 miliardo e 600 milioni. Le entrate complessive di quella grande, luminosa azienda che è il Comune di Roma sono aumentate del 25%. I ricavi complessivi sono pari a 5 miliardi, ma continuano a produrre disavanzo e debiti. E allora cosa sarebbe capitato in un'azienda seria? Li avrebbero licenziati tutti. Non tutti. Ci sono dubbi. Però da noi si fa così. Quanto sei bella Roma, quando è sera, quando la luna si specchia dentro il fontano. Gerangelo, eccomi. Il tuo salamino? Ecco il salamino. La lettura dei giornali di oggi mi ha offerto una cosa che mi ha colpito particolarmente, perché noi siamo abituati al turpiloquio, alla lingua che diventa malalingua, ormai l'Italia è avvolta in questa sorta di continuo rovistare nella spazzatura del linguaggio. E mi ha colpito l'intervista ad un autorevole esponente politico, un importante personaggio del teatro della politica, si chiama Paola Taverna, è un esponente del partito, non so se sia un movimento, comunque dei 5 Stelle, quelle sì. Dei Grillini, che si è dichiarata felice come una iena. Felice come una iena. Ma la iena non so se è tanto felice. Però felice come una iena suona particolarmente sinistro. E allora, siccome credo che si difetti in scienze, conoscenze e sensibilità, io affiderei alla voce di un grande personaggio della letteratura una lezione a riguardo delle iene. Noi fummo i gattopardi, i leoni. Chi ci sostituirà saranno gli sciacalli, le iene. Bello, bene, proprio. Bello, però mi ha ricordato, una citazione cinematografica. In Vita di Pi, quando sulla barca ci sono la zebra, la iena, la tigre e Pi, a un certo punto la iena ammazza la zebra. Solo che poi la iena viene ammazzata dalla tigre, quindi non conviene essere iene, diciamo così. Perché la spontanea. E poi questo zoomorfismo è sempre pericoloso. Oddio, ho usato la parola zoomorfismo. Qua non vocaboli è come, è come pisello verde. Il pisello verde, il pisello verde di Farinetti. Non nascondere il tuo ottimo liceo, Mario. No, io ti dico una cosa, quando grillino. Andiamo avanti con le bolle. Le vostre parole, sono felice. Ora! Insomma, qua c'è una sorta di Barbieri di Siberia e vi dico subito... L'inno imperiale russo! Bravo! Non poteva mancare. Non poteva mancare. Beh, insomma, Yanukovych, sapete tutti, è in Russia, dovrebbe dare una conferenza stampa oggi intorno alle 17, poi vediamo se lo fa, e parlare, raccontare, insomma, che cosa sta succedendo dalle sue parti, che poi sono le parti di Putin, o almeno così appare. La Svizzera ha congelato tutti i suoi fondi. Giovanni, 70 miliardi di assets offshore, si dice. Mamma altri mia. 3 miliardi pare in Cina. Com'è che si dice? Offshore. E poi ti fa paura zoomorfismo, eh? Certo. Segnalo che stamattina la guerra in Crimea continua, un comando armato aveva preso l'aeroporto di Simferopoli, poi sono arrivate le truppe di Putin, se la sono data a gambe. È in corso in realtà una grande guerra fredda, dove gli Stati Uniti giocano un ruolo molto importante, sia pure diciamo indirettamente, cioè influenzando altri. Ecco, prego. Ma secondo te Renzi fa come Cavour? Mandare truppe in Crimea? Scusa, no. Per sedersi al tavolo della pace? Sai, io penso che Renzi... Hai visto la storia? Io penso tanti anni di storia. Renzi ha altri problemi a cui pensare. Tra l'altro qualcosa gli si presenterà stamattina. Sentite qua. Cenerentola! Sì, signora madre. C'è quel grande tappeto nell'ingresso. Sbattilo! Le finestre al piano di sopra. Lavale! Poi c'è da fare la tappezzeria e le tende. Ma ho appena finito. Falle di nuovo! Poi rastrellerai il giardino, laverai il terrazzo, scoperai le stanze e le scale, pulirai... È la matrigna, Europa, perché insomma oggi, tra un po', tra un'oretta, dovrebbero essere forniti nuovi dati sull'occupazione e l'inflazione, sono attesi invariati, non è una buona notizia, parliamoci chiaro, dovrebbe esserci la disoccupazione intorno al 12% e l'inflazione allo 0,7%. C'è, l'unica notizia buona è che non aumenta la disoccupazione probabilmente e non cala l'inflazione, quindi vediamo il canzoniere succede. Ai 30 secondi vado alla lettura. Giuseppe, dinanzi al portone, trastullava il suo bambino, cullandolo sulle braccia, mostrandogli lo scudo marmoreo infisso al sommo dell'arco, la rastrelliera inchiodata sul muro del vestibolo, dove ai tempi antichi l'anzi del principe appendevano le alabarde. Mix 24. C'erano i comizi, lo scudo crociato, la Democrazia Cristiana, un bianco fiore, simbolo dell'amore. Ebbene, dimenticatela. Non avete più bisogno di ricordarla perché Matteo Renzi, da bravo democristiano, ha massacrato quel che restava della Democrazia Cristiana e ha fatto entrare il Partito Democratico nel Partito Socialista Europeo. È scoppiata una rissa. Ha fatto bene. Ma se la vede lui, tanto. Una scienza obbligata. Tanto, scusate, il cane non è mio. Però c'è stata una discussione interessante perché Fioroni si si è arrabbiato, hanno cercato di mettere pace, allora la discussione era tutta su questo fatto. Io non voglio morire democristiano, l'altro diceva, io non voglio morire socialista. D'Alema, nella sua infinita saggezza, che ormai è come il grande timoniere, ha detto, scusate, mettiamoci d'accordo sulla prima parte, io non voglio morire. Punto. Barry White. Dai. Carino. Sentilo qua, Pietrangelo. Com'è suadente. Mia cugina Laura perché era fissata con è suadente, sentilo come evoca anche larghe forme. Allora nutrirsi bene negli Stati Uniti. Tu hai avuto Farinetti stamattina, abbiamo visto, ha le idee, mi pare molto chiare, la Food and Drug Administration negli Stati Uniti pure, nel senso che sta cambiando l'etichettatura dei cibi per combattere un grave problema che non è solo americano ma è anche di tutti i paesi occidentali, che è l'obesità. Se ne sta occupando direttamente Michelle Obama. E ci saranno informazioni più dettagliate sulle etichette, in particolare zuccheri, calorie e porzioni reali da consumare. Il numero di calorie, questo è interessante per i consumatori, sarà un numero gigante nell'etichettatura, molto più grande di tutto il resto. Dopodiché verrà il numero degli zuccheri aggiunti, che tu sai, i cibi hanno un, certo, cosa, un tenore naturale di zucchero, al quale però qualche volta viene, molte volte, anzi viene fatta l'aggiunta. Sì. E dunque anche questo sarà un valore ben visibile. In realtà, al contrario di quello che dice Farinetti, questo in America sarà un processo abbastanza lungo, che durerà circa 2 anni. Sara, c'è qualcuno che ha vinto? Sì, Giacomo da Milano. Giacomo, Giacomo, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ci dà la risposta? I viceré di Federico De Roberto. Perfetto, bravo. Mamma mia, arriva cultura. Un Feltrinelli. Beh, ma un grandissimo cultura, libro, eh? Parliamo di veramente molto bello. È sì, più bello del Gattopardo. Beh, se la battono. Non è più bello del Gattopardo. Sì. No, no, lui bello, non è d'accordo. Bravo Giacomo. Ma grazie, abbiamo Giacomo, chiesto se ha googolato. Ha googolato Giacomo? No, no. No, no, no, no, no. Memoria? Sei in macchina? Sono in macchina, sì. Ah, Google in macchina non si riesce a fare. Per il momento, ma tra un po' arriva. Va bene. Allora, tra un po' arriva. Grazie, complimenti. Senti, bolla, ancora dico una cosa, bolla. Sì. Ti dico però, aspetta, aspetta. Perché Saddam Hussein's brutality, senti, senti, in their mind. Now, look, Saddam Hussein had used weapons of mass destruction against his own people, against the neighborhood. Ve lo ricordate, Giorgino? L'invasione dell'Iraq. Grande Giorgino? Saddam, bene. È un grande pittore. È più bravo come pittore stiamo che parlando, stiamo parlando di Bush, perché sì, qui sennò, Giorgino Bush, su. Beh, certo, bene, è un grande suo pittore. Io, l'unico Giorgino che conoscevo era Almirante. No. No, c'è anche Giorgino al TG1, no? No, Giorgino Amendola, naturalmente. Oppure Napolitano. Allora? Io mi occupo di Giorgino Bush, che, ha che fatto? È diventato pittore. Alla fine del suo mandato alla Casa Bianca ha scoperto di avere questo dono, si è applicato, e a Dallas faranno una esposizione dei suoi quadri. E sai che pare che sia molto bravo? Molto, molto bravo. Lo vedremo a Sotheby's. Intanto cerchiamo di capire dov'era il canone bolle ieri tutto, sera? Ma... bolle tutto. Dov'era il canone ieri sera, professor Simonelli? Buongiorno. Buongiorno, professor. Intanto vi posso dire una cosa. Dica. Ho indovinato l'indovinello di Buttafuoco sia ieri che oggi. Accidenti. Bravo, professore. Oggi googolando e ieri senza googolare. Colpo grosso. Come googolando? Allora, però adesso vi dico dov'era il canone, perché ieri sera non ci sono dubbi. Il canone è comparso ieri sera un po' tardi, verso le 11:30 su Rai 1, con un programma bellissimo che si chiama A Te, cioè il programma dedicato a Lucio Dalla da Fiorella Mannoia. Ah, fantastico. Un programma molto bello che mescolava un concerto bellissimo di Fiorella Mannoia, quindi le immagini di questo concerto, le canzoni, Fiorella Mannoia, tutti la apprezziamo come cantante, ma univa queste immagini e questi suoni a considerazioni che la Mannoia faceva sui suoi rapporti, la sua conoscenza con Lucio Dalla, e qui la sorpresa, perché i cantanti di solito quando parlano, quando raccontano, dicono molte banalità, invece ieri non c'erano banalità. Professore, Sì. No, guardate, avete preso una piega melodica in questa trasmissione che io contesto e no. Adesso ve lo dico perché. Senti qua. Erano gli AC/DC. Adesso potete pure continuare a fare quello che volete, eh? Basta. Perché questa inimicizia per la melodia? Parte troppo, che... troppo. Dalla ognuno la sua parte. E allora, professore? Anche perché la terza cosa che si vedeva, sì, erano immagini, anche queste, non dico inedite, ma abbastanza originali, della vita di Dalla, dei suoi film, delle sue comparsate televisive. Dalla ha avuto un côté tutt'altro che melodico dal punto di vista dell'immagine, molto direi sperimentale anche. Ecco, quindi un'unione perfetta di questi tre livelli, di questi tre strati, e un programma veramente di alto livello. L'unica domanda è questa: perché mandarlo in onda alle 11:30 di sera in terza serata? Beh, professore, le do una notizia: alle 10 del mattino lunedì noi avremo la storia di Lucio Dalla, quindi rimedieremo a questa mancanza. Facciamo servizio pubblico? Ma per carità, facciamo la ruota di scorta del servizio pubblico. Il ruotino. Ieri sera, in seconda serata, sì, vanno in onda sempre molte chiacchiere, sì, le chiacchiere di Porta a Porta, le chiacchiere di Gazebo, un po' di buona musica, benché melodica, ecco, forse è meglio di tante chiacchiere. E poi ieri sera Rai 1 aveva anche una possibilità di continuità, perché molto tardi, sempre ormai a notte fonda, andava in onda un film intitolato in Italia La Vie en Rose, in francese La Môme, che è il film biografico di Edith Piaf. Grazie. Quindi, ci siamo, professore. Tutto musicale, e dare una continuità e una coerenza ad una serata diversa. Bella serata, insomma. Lello da Vicenza ci scrive: tanto gli sms non li leggete, lo leggiamo quando sono firmate. Oggi Marina Milone ci racconta uno degli enigmi della storia, l'omicidio di Olof Palme, leader socialista svedese, ucciso il 28 febbraio del 1986. Seguirà una sua intervista con il giornalista Ennio Remondino.